Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il primo taxi in fila in quel momento e a quel posteggio era quello del sottoscritto. La vedo avvicinarsi e dico tra me e me: mica vorrà il taxi sta signora qua. Faccio appena in tempo ad incrociare lo sguardo di un collega che la osserva e la signora dal cappello alto esclama: è lei il primo? Io annuisco e la invito a salire. Ciao, mi chiamo Luca, ho quasi 49 anni, vivo a Roma e sono un tassista. Ci sono delle canzoni, è inconfutabile. Ci sono delle canzoni che ci aiutano in qualche modo, non so come, a sentirci meglio, a sentirci più felici o meno tristi se non siamo degli entusiastoni. Nella storia di oggi, nella storia che ci ha raccontato Luca, che fa il tassista e un giorno ha caricato questa signora, in questa storia questa signora, che è la protagonista insieme a lui, canta una canzone per sentirsi allegra e felice, che è "L'unico frutto dell'amor è la banana, è la banana". So che sembra un'assurdità, ma vi assicuro che ascoltando la storia di Luca all'inizio lo sembra ancora di più e poi si capisce tutto. Si capisce questa cosa qua, che ci sono delle canzoni che magari non sono nemmeno le nostre canzoni preferite, eh? Cioè magari sono canzoni che noi non compreremmo mai in un CD. Non è un pezzo dei Pink Floyd di cui ci vantiamo con gli amici, magari è anche una canzone di cui ci vergogniamo un po'. Però c'è una canzone che quando abbiamo voglia di stare meglio, quando abbiamo voglia di sentirci un po' più allegri o siamo più allegri, noi cantiamo e facciamo la stessa cosa oggi qui in diretta su Radio 24. 800240024, alzate il telefono, preparatevi a cantare, schiaritevi la voce, perché oggi sono sicuro che da questa mattina ad ora, che sono le 16.09 di un mercoledì 13 febbraio 2013, sono sicuro che in queste ore, da quando vi siete alzati, vi avranno parlato almeno A, del fatto che c'è crisi e quindi ci sono dei tagli e quindi avrete meno soldi e quindi andrà sempre peggio, quest'anno sarà drammatico, vi compreranno meno roba se siete dei venditori, oppure vi ordineranno meno case se siete dei costruttori. Insomma, comunque vi hanno parlato della crisi, primo. Secondo, qualcosa sulla campagna elettorale l'avete intercettato. Questi sono due buoni motivi per non pensarci e cantare una bella canzone, qualunque essa sia, la canzone che vi fa sentire meglio. 800240024, oppure voi siete qui, @radio24.it, se volete segnalarcela attraverso YouTube, ma oggi direi che è meglio cantare, ci sono un sacco di commenti. La canzone, ognuno c'ha la sua canzone, che sia italiana oppure no. Per Mauro la canzone è "Friday I'm in Love" dei Cure, per Vincenzo è "Fantasie d'inverno" di Franco Fasano, una canzone che riesce a darmi una gran pace interiore, non so cosa sia. "L'eclisse" di Cristina Donà per Stefania, per Gianluigi "Ogni volta" di Polanca. 800240024, se siete in auto, possibilmente se siete da soli, ma guardate, la signora della storia di oggi vi ricorda che anche se non siete da soli si può cantare. Se siete in studio, se state passeggiando e avete voglia di cantare in diretta la canzone che vi fa sentire meglio, per sentirvi un po' meglio di come vi sentivate prima, 800240024. Questa è la storia di Luca, questa è la storia dell'unico frutto dell'amor. Anno 2001, primavera, caldo. C'era caldo quel giorno ed era solo un annetto che esercitavo il mio mestiere. Io faccio il tassista in una città, Roma, dove il caos regna padrone. Ero quindi ancora alle prime armi, un po' impacciato, ancora ingenuo, ma con tanta voglia di scorazzare i miei clienti in giro per la città eterna. Quel giorno arriva al posteggio una signora all'apparenza singolare. Non ricordo come fosse vestita, ma ricordo come fosse ieri, che portava un cappello strano, molto strano. Era tutto colorato ed era alto, una sorta di cilindro ma molto più alto e per l'appunto tutto colorato. Il primo taxi in fila in quel momento e a quel posteggio lì è il mio. Io la vedo avvicinarsi e penso fra me: mica vorrà un taxi sta signora. Faccio appena in tempo ad incrociare lo sguardo di un collega che la osserva e se la ride, che la signora dal cappello alto esclama: è lei il primo? Io annuisco e la invito a salire sul mio taxi. Generalmente faccio un centinaio di chilometri al giorno, cioè sì, all'incirca un centinaio al secondo, se magari capita che vado all'aeroporto, allora magari faccio qualcosa di più. E generalmente si fanno 15-20 corse al giorno. Nel 99% dei casi è usanza salire nei sedili posteriori. Invece la signora sale davanti, di fianco a me, e con lei sale ovviamente il suo cappello, il quale, essendo alto, tocca il tettuccio. Per capirci meglio, la signora era bassina e la mia macchina era la Fiat Multipla, quell'obbrobrio di macchina che sembra un'edicola con due ruote. Fatto sta che il cappello toccava abbondantemente il tettino, ma la signora, pur di non levarselo, si era incurvata, da una parte si era incurvata e da una parte lo aveva spiaccicato sul tettino. Mi dice l'indirizzo e partiamo. Non faccio in tempo a inserire la prima che la signora mi fa una richiesta alquanto bizzarra. Niente di sconveniente, per carità. Mi chiede semplicemente se può cantare. Io abbozzo con un sì di circostanza. Al mio consenso lei comincia a intonare una canzoncina che in quegli anni andava per la maggiore, che è «L'unico frutto dell'amor è la banana, è la banana». La prima con voce fioca, come se stesse cantando tra sé e sé, poi sempre più forte, fino ad arrivare quasi ai livelli da concerto. L'unica cosa che io in quel momento potevo fare, oltre a quella di camuffare l'imbarazzo, era solo invitarla a diminuire il volume, altro non potevo fare. A un certo punto, tutto d'un tratto, lei si zittisce e io comincio a preoccuparmi. La signora, tutta accartocciata per via del suo cappello alto, si rivolge a me esclamando: «Ma perché non canta pure lei?» «No, guardi, signora, grazie, io non so cantare». «Ma perché io so cantare?» mi risponde. Ed effettivamente le campane di San Pietro erano più intonate di lei. «Signora, guardi, le dico, non so cantare e poi sto lavorando. Insomma, provo a buttarla sul professionale». «Senta, signore mio», mi dice lei, «lei deve cantare, perché è troppo bello cantare». Mi rassegno, le faccio sì con la testa e le dico: «Vabbè, solo il ritornello. Una volta sola, però. Dai, dai, che ci divertiamo», mi dice lei. E così ho cominciato. Ho cominciato a cantare quel ridicolo ritornello in coppia con la signora dal cappello alto sul mio taxi. Abbiamo ripetuto quel ritornello 10-15 volte. Poi, durante il duetto, ricordo soltanto qualche flash. Fermi al semaforo, aspettando il verde, io e la signora cantiamo a piena voce «L'unico frutto dell'amor è la banana, è la banana». Mi volto sulla mia sinistra e vedo un collega che, per via dei finestrini tirati giù, ci osserva e soprattutto ci ascolta. Io smetto di cantare, vergogna totale. Gli lancio uno sguardo come per dire: «Oh, e che ci posso fare? Mi ha quasi costretto, è mezza matta. Se non cantavo magari...» E poi lo vedi che cappello che ha? E neanche se lo toglie. Generalmente parliamo, ci raccontiamo tra di noi appunto vicende, storie che possono capitare nel proprio taxi, più o meno divertenti, più o meno spiacevoli. Per esempio c'è la classica frase «segua quella macchina», oppure a me personalmente una signora mi ha fatto fare avanti e indietro in una vietta 6-7 volte perché doveva vedere non so cosa, non sono riuscito a capire cosa, forse una macchina parcheggiata o un biglietto su un tergicristallo, non lo so, però mi ha fatto fare questo «via vai» avanti e indietro più di una volta in una via. Non so se il collega dal mio sguardo abbia capito tutto questo, so solo che io volevo sotterrarmi. Poi arriva il verde, finalmente ripartiamo. La signora canta ancora, ma vedendo che io ho smesso, smette pure lei. Ecco, da quel momento non ha più fiatato. Siamo arrivati a destinazione, ha pagato regolarmente la corsa ed è scesa. Mentre riparto, il mio sguardo va a cercare nello specchietto retrovisore quella signora che si allontana e continuo ad osservarla incuriosito. Sorrido e penso che cosa possa dire la testa a determinate persone. Che poi, in fin dei conti, quella signora dal cappello alto voleva solo cantare e magari avere un po' di compagnia. Il tassista ha sempre esercitato un certo fascino nel mio immaginario. Incontri sempre nuovi, destinazioni sempre nuove. Sarà che quando mi capita di prendere un taxi sono spesso da solo e sto andando da qualche parte in una città che non è la mia città. In quei tragitti spesso mi concedo di parlare solo se ho voglia di parlare e di stare zitto davanti a un altro essere umano se ho voglia di stare zitto. Che, se ci pensate, non è una libertà che ci prendiamo spesso, Dico, stare zitti insieme a qualcun altro dentro uno spazio chiuso, minuscolo, capita davvero di rado. In ascensore, ad esempio, o davanti a una macchina del caffè in ufficio, o in una sala d'attesa mentre aspettiamo il turno, due chiacchiere sul meteo si fanno sempre. Su taxi invece no. Non mi sento in dovere di intrattenere l'altra persona. Solo che di solito proprio quando uno sta zitto, quando uno è convinto di non essere osservato, è proprio in quei momenti che fa le cose più strane agli occhi degli altri. Per fare il tassista, secondo me deve essere una persona curiosa. Io se fossi un tassista passerei la mia giornata a farmi un sacco di domande su chi sia il mio cliente. Soprattutto se sta zitto. Poi, vabbè, ovviamente subentrerebbe la routine e l'abitudine al lavoro farebbero perdere smalto alla curiosità, però mi piace pensarla così. A parte questo, quello che vale davvero per tutti, e su questo ho solo certezze, è il fatto che a tutti, ma proprio a tutti, piace cantare. Poi magari non lo si fa. Non lo si fa di fronte agli altri, ci si vergogna, però cantare sono convinto che piaccia a tutti, nessuno escluso. Anche, non lo so, la vostra peggiore professoressa delle superiori, se fate uno sforzo, ve la potete immaginare cantare in qualche situazione. Tutti amano cantare, anche gli stonati amano cantare. E non è vero quando si dice che gli stonati non esistono, gli stonati esistono, e come? Magari ne esistono meno di quello che immaginiamo, ma esistono. Eppure, anche a chi è stonato piace cantare. E più si canta ad alta voce, e più è bello, e ci si libera. E più si canta ad alta voce, più si prende coraggio. E qualche volta qualche stonato, cantando a squarciagola, scopre che non è davvero stonato come aveva pensato. Cantano tutti, e cantavano tutti, cantavano i partigiani per sentirsi forti, cantavano i neri nei campi di cotone per sopportare il peso della schiavitù, cantano gli inni nazionali, gli sportivi. È senso di appartenenza, ma è anche liberarsi dagli ingombri e dei pudori. Da un po' di anni i calciatori della nazionale, quando cantano l'inno, fanno una cosa che prima non facevano, si abbracciano. Questa abitudine io l'ho vista per la prima volta durante il mondiale del 98, quello di Francia, vinto dalla Francia. E quella era una squadra straordinaria per talento calcistico, ma soprattutto perché è stata un simbolo di una nazione europea, moderna, multietnica. A riconoscere questo simbolo, per quanto mi riguarda, più di tutti ha contribuito il fatto che vedevo cantare gente totalmente diversa, di colore diverso, provenienza diversa, Thuram, Zidane, Djorkaeff, Desailly, Lisa Razou, tutta quella gente lì. E cantavano, e cantare ci rende più forti, più aperti, più coinvolti. Quando non ci vergogniamo di ammettere che siamo felici, facciamo quella cosa lì, cantiamo. E la signora col cappello alto nel racconto di Luca è felice. Signora, lei deve cantare, è troppo bello cantare, gli dice. Ha ragione lei. Lei vuole solo cantare l'unico frutto dell'amore, la banana. È strano, certo, ma ci sono cose molto più strane a cui siamo abituati. E Luca ha fatto bene, l'ha accompagnata. E ci ha pure preso gusto. Purtroppo, come sempre succede, basta un piccolo dettaglio a riportarci alla realtà. E per loro, cioè per Luca e la signora col cappello alto, è bastato un semaforo rosso e incrociare lo sguardo con un altro in cui ti riconosci, come per Luca, no? Un collega, un tassista, e l'ha riportato alla realtà di tutti i giorni, dove ci sono ruoli ben definiti per ognuno di noi, devi fare questo, devi fare quell'altro. E per Luca il ruolo del tassista, e per la signora col cappello alto il ruolo della cliente. Tutto deve rientrare in qualcosa che riconosciamo e che ci faccia stare tranquilli. E anche questo è comprensibile. È comprensibile e ragionevole. Però io, quando sono felice, ma felice felice, canto a squarciagola Il sole, di Albano. Sì, e non me ne vergogno. Scuola Albano, ragazzi, ho fatto anni di lezioni. Verrò da te. È la prima volta che faccio questa cosa, di cantarla davanti a delle persone, davanti a me, a Paolino, Tiziana Margherita, e anche, diciamo, all'ascolto. È quello che chiedo di fare però a tutti voi, di abbandonare l'imbarazzo e di unirci in un unico gesto liberatorio, scaramantico, nei confronti di questi giorni di Sanremo, nei confronti di tutte le iatture che ci stanno lanciando contro. 800240024 per cantare la canzone che vi rende felici. Lui alla fine l'ha cantata, anche se forse non era quella che lo rendeva particolarmente felice, però un po' più felice, un po' più libero si è sentito. Pronto, Luca? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Sei sul taxi? Sì, sono su un taxi, mi sono fermato per la telefonata. Sei in servizio, quindi? Sì, sono in servizio, faccio il pomeriggio tutti i giorni, quindi sono in servizio adesso. Voi i turni ve li è una cosa che chiedo sempre e non l'ho ancora capito. Ve li decidete da voi? Cioè, voi potete uscire quando volete, tornare quando volete? Diciamo sono imposti, ogni licenza ha imposto un turno che è generalmente una settimana mattina, una settimana pomeriggio, alternate mattina e pomeriggio, e poi ogni 4 mesi capita una settimana di notte e di seminotte. Però ognuno può decidere, per esempio io voglio fare il pomeriggio fisso come lo sto facendo da tanti anni, e ho trovato uno che vuole fare la mattina fissa, adesso detto, e quindi vi fate, ho capito, e quindi ci siamo scambiati il turno fisso sempre, io faccio sempre il pomeriggio e lui fa sempre la mattina. Quante volte ti è capitato di cantare con un altro cliente sul taxi? Mai, solo quella volta. Senti, quella signora. Ma questa signora dal cappello strano era o una signora molto ricca e quindi un po' particolare, o una signora in cura da qualche parte, o semplicemente una signora che voleva cantare col taxi e il cappello alto? Ma era un po' strana come signora, però era vestita normale, cioè ha questo cappello che era già particolare, molto particolare, che non si usa generalmente, quindi è... Poi no, sembrava una signora normale, tranne il cappello sembrava una signora normale, poi quando ha cominciato a cantare, logicamente un po', insomma, forse tanto normale non era, però era tranquilla, insomma, poi alla fine ha pagato regolarmente, era, insomma, niente, voleva cantare, gli piaceva cantare. Però. E tu avevi la radio spenta in quel caso, oppure lei è andata sopra? Mi sembra che l'ho spenta, adesso non ricordo, però mi sembra che io la tengo sempre un po' accesa, qualche cosa sento sempre, e l'ho spenta perché questa qua cantava. Senti, quindi... questa cosa della radio dei clienti, i clienti ti capita mai che ti chiedano di cambiare la radio che stai ascoltando, o di ascoltare un programma, o di alzare il volume, o di spegnere? Sì, capita, spesso ci sono molte persone, oggigiorno con l'avvento dei telefonini stanno, l'80% stanno al telefono, quindi io la radio o la spengo, la tengo molto basso, oppure c'ho proprio l'auricolare. Per la radio? Per la radio ho comprato una radiolina, un coso, come si chiamano quelli, delle radio piccole con l'auricolare, in modo che mi posso sentire tranquillamente la radio e loro parlano al telefono. Quindi tu sei uno dei pochi tassisti romani che non ascolta le radio di calcio romane? Bravo, io se non mi piace lo sport e non mi piace neanche la musica, infatti ascolto sempre Radio 24 perché di musica ce ne fa poca. Dalla mattina alla sera, senti... Diciamo pomeriggio, perché la mattina sono libero, faccio altre cose, poi il pomeriggio sto in macchina, sento sempre, quasi sempre Radio 24. Qual è l'incontro? So che è la domanda veramente da $1,000, ma da 1 milione forse, qual è l'incontro più assurdo che hai fatto sul taxi? Questo del racconto è uno tra i più assurdi perché è quello più particolare, quello più strano, eccetera. Altri incontri singolari, divertenti, non lo so, persone... Io soffro molto il caldo, una signora d'estate mi ha fatto chiudere tutti i finestrini perché non so, c'era freddo, era a luglio, io mi sono morto di caldo e questo è tutto tappato, per esempio, cose singolari così. Luca, scusami, invece ho visto dalla foto che raccontiamo dopo che sei in una squadra di risico, fai parte di una squadra di risico con cui partecipate ai tornei? Sì, vabbè, il risico è una mia passione, sì, faccio parte di un club. E ogni anno ci sono dei tornei anche a squadre, la foto che appunto vi ho mandato è all'occorrenza un campionato a squadre, il nazionale a squadre, che si fa ogni anno. Dove? Allora, si faceva prima a Lucca, adesso ultimamente si fa a Modena, sono 3 anni, questo adesso sarà il terzo anno che si fa a Modena, e in un contesto ludico di una manifestazione di giochi da tavolo. Ah, ok, all'interno di un'altra manifestazione. Sì. Luca, è appunto questo. Io ti voglio ringraziare, ti voglio salutare, però voglio chiederti qual è la tua canzone liberatoria. Quando ti capita di cantare da solo sul taxi la notte tornando a casa, o la mattina quando non c'è nessuno? Raramente, come ti ripeto, a me non piace molto la musica, quindi neanche sono uno dei pochissimi che non canto, forse... Così non ho dei motivi particolari, sotto la doccia o dentro la macchina quando sono da solo, forse qualche volta canticchio qualcosa, però allora, niente particolare. E allora non ti chiederò di cantare, però ti ringrazio per il racconto che era molto molto divertente e la chiacchiera che è stata molto piacevole. Grazie a te Matteo, ciao Luca. Ti seguo sempre. Grazie ciao, mille, grazie. ciao. Sono arrivati altri messaggi che mi raccontano quali sono le loro canzoni preferite. Qualcuno mi dice: sono sul tram a Milano e sto cantando Nel Sole, la gente mi guarda male, mi devo preoccupare, Costantino, non lo so, vedi tu. siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Con la squadra, con tutto il resto della squadra di Risico e nella tenuta ufficiale della squadra di Risico, Luca, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, lui è quello segnato con una freccia rossa, è quello il primo in alto a destra. Hanno una divisa, devo dire, non è proprio il massimo questa divisa, Luca. Ha questa t-shirt arancione sotto e una tuta grigia sopra. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma come si gioca in Risico in 6? Tutti insieme in un'unica volta? Vabbè, hanno in mano una scatola del Risico e la coppa dei vincitori assoluti. Canzone. Sostantivo femminile. Componimento lirico di intonazione solenne risultante di più stanze che serbano di solito un medesimo ordine di rime e di versi. In musica, componimento trova dorico, intonato su carme di tal nome. Breve componimento in versi, destinato a essere musicato e cantato. Figurativo, atto o discorso che si ripete con esasperante monotonia. Etimo, latino, cancionem, derivato di canere, cantare. Data, prima metà secolo XIII. 800240024 è una puntata liberatoria quella di oggi. Abbiamo preso spunto dalla signora col cappello alto che Luca ha caricato sul taxi e che a un certo punto di punto in bianco ha cominciato a cantare l'unico frutto dell'amore è la banana, è la banana. Potrebbe sembrare strano in una radio come Radio 24 che la gente comincia a cantare, e potrebbe sembrare strano alle persone che sono a fianco a voi sentirvi cominciare a cantare, ma questo è il primo passo per liberarsene e per scongiurare il periodaccio che si sta vivendo più o meno tutti. 800240024, mi scrivo. Il polpo, lo conosciamo il polpo, canta Lucky Man dei Verve. Matteo, io non ho più cantato dal saggio delle elementari quando la maestra mi disse: Giuseppe, muovi solo la bocca per piacere. Mauro da Finale Emilia, canto You Latest Trick di Dire Straits. E poi ancora Nicola, I Got a Feeling. E poi non so chi, Andrea da Firenze dice: io amo e canto Ho visto un re di Iannacci. Che a questo punto ho visto un re, se la riscusa, ho visto un re, ah, beh, sì, beh. E canta anche l'Internazionale, mi dice Andrea da Firenze. La sella piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. 800240024, si canta oggi a Radio 24, così non dobbiamo neanche pagare la SIAE, giusto? La pagano direttamente loro. Partiamo da Emanuele da Roma. Pronto Emanuele? Pronto, ciao. Come stai? Io sto bene. Io sto facendo una passeggiatina, sto cercando un posto dove non mi senta nessuno. Emanuele, che lavoro fai, Emanuele? Ho quasi vergogna a dirlo, comunque insegno. Insegni che cosa? Insegno filosofia e storia. E allora Emanuele, sei il primo che può cominciare a cantare. Di Emanuele da Roma canta Storie d'amore di Celentano. Ma sì, quella è una canzone che ogni tanto canticchio sotto la doccia. Vado? Quando vuoi, Emanuele. Allora, tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché? Io le piacevo. Emanuele, sei davvero straordinario. Mi è piaciuto perché sei riuscito a cantarla a bassa voce, come se nessuno intorno a te ti dovesse sentire. Dov'è che insegni? Insegno in una scuola del centro. Del centro di Roma? Sì. Emanuele, grazie. Liceo scientifico. Grazie mille e buona passeggiata. Buon divertimento e complimenti a voi, vi seguo sempre. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. Ciao. 800240024. Questo è Celentano e tra poco sentiamo un altro pezzo. Tua moglie dov'è? Andiamo a Mantova da Maria Chiara. Pronto Maria Chiara? Madonna. Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene. Che cosa stai facendo, Maria Chiara? Sto tornando a casa e vado a prendere la bimba all'asilo. Da dove torni a casa? Da Modena. Che lavoro fai? Faccio la ricercatrice. Benissimo, ricercatrice di che cosa? Ingegneria informatica. E che cosa ti rende una donna felice quando canti? Beh, pensare ai miei bimbi e pensare che con quelli salgo da tutto. E che cosa canti? canto Salirò di Silvestri. Maria Chiara, quando vuoi, ti mettiamo anche la base in modo che così fai quasi meno fatica. Pensa che i tuoi figli ti stanno ascoltando, stai quasi arrivando da loro e hai voglia di cantargli la squarciagola, quando vuoi. Preferirei salirò sulla notte di questo giardino. E salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Sei brava, Maria Chiara. No, sono emozionatissima. Devi prendere solo un pochettino più di coraggio. Scusami, ricercatrice di che cosa, me lo ricordi? In ingegneria informatica. Ingegneria informatica, il che significa che ricerchiamo? Sugli agenti mobili. Ma cose strane da spiegare. Va bene, Maria Chiara, ti ringrazio. Saluta i tuoi grazie figli. A voi, ciao, buona grazie giornata, ancora. Ciao. 800 24 0024. Che magia dello zecchino d'oro, canta Elisa, mentre Rino da Napoli ci canta Maruzzella. Pronto, Rino? Ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Sei molto tranquillo, Rino? Sei in casa? Stai aspettando qualcuno? Sono qui in studio. Perché che cosa fai? Faccio l'odontoiatra. Ah, perfetto. Sì. E non hai clienti, spero tu non in abbia clienti. In questo momento no, infatti. In questo momento. Senti, Maruzzella, qui affondiamo le radici nella tradizione della musica napoletana. Sì. E che prima di cantarla mi dici grosso modo qual è il tema, perché ogni canzone napoletana ha sempre un tema struggente. No, è una storia di un amore, Maruzzella è una ragazza, e quindi una canzone dedicata a questa ragazza. Rino, quando vuoi. Maruzzella, Maruzzella, mi miserin dall'occhio mare, e te mi sentite a me un dispiacere. Sto coro mi fai chiagnere, più forte l'onda quando c'è la scura. Prima parisce si poroce, roce, mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Rino, grazie mille. Io ti immagino nel tuo studio col tuo bel camicino quel color verde acqua. Grazie. Un trapano in mano. Hai una voce fantastica, Rino. Grazie a te. Complimenti per la trasmissione. Ma mandaci una storia, Rino. Va bene. Mi grazie. Raccomando, voi siete qui @radio24.it. Buona giornata. Ciao, un bacio. E da anche a te. E da Napoli andiamo a Belluno, dove Rudy ci vuole cantare Goldrake. Pronto, Rudy? Ciao. Ciao, dove sei? Allora mi sono fermato in un distributore in questo momento. E mi sembri anche abbastanza imbarazzato, Rudy. Sono imbarazzato e senza voce più che altro, perché ho raffreddore e mal di gola. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Io lavoro per un'associazione di rappresentanza. Benissimo. Figure. Come se ti ascoltassero tutti, Rudy, perché abbiamo pochissimo esatto. tempo. Vai! Allora, però una premessa, non è la canzone che conoscono tutti, è la colonna sonora di quando Goldrake usciva dalla sua base. Ma chi se ne frega, vai! Ok, allora attenzione, via! Ma devi fare i vocalizzi, Rudy. Ho fregato, è solo fregato strumentale. La canzone in giapponese. C'hai fregato, sì. Va bene, Rudy, ti ringrazio. Buona giornata. Sì, ciao. A voi. Io ciao. Voglio assolutamente sentire come ultima telefonata una donna da Roma, Maria Gabriella, che canta un grande classico che è questo piccolo grande amore. Maria Gabriella. Sì. Ciao. Buonasera. Senti, sono un po' emozionata. Anch'io Maria Gabriella. Guarda, ho solo 20 secondi. Riesci sì. a partire subito a cantarmela? Va bene. Vai. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto, e quell'aria da bambina non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo male. Grazie mille, Maria Gabriella. Che lavoro sono fai nella vita? Ma è venuta fuori alla grande. Che lavoro fai nella vita? Sono casalinga. Mio marito è pensionato. Benissimo, vi immagino lì a casa a prepararvi da mangiare e a cantare baglioni. Sì, veramente, stavo capando la verdura e sento sempre Radio 24, siete molto bravi, carini e tutto. Grazie mille. E così raccontate tante belle cose. Ed è così che voglio finire questa puntata. Grazie Maria Gabriella, grazie a te, a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie anche a Mauro Pescio e a Luca. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. sono Anna, abito in provincia di Agrigento, la storia di domani è la mia e parla del cielo della Sicilia, che comunque non si paga. Questa è la mia storia e io sono qui. We'll be right back.